Dal 16 al 18 dicembre si svolgerà la 12ª edizione del Festival Passatelli in Bronson al Bronson Club di Ravenna. Un festival che vedrà come protagonisti artisti che operano sul territorio nazionale. È qui con noi per parlarne Chris Angiolini, a cui do il benvenuto su Radio Città Fucico. Ciao, grazie per avermi invitato come sempre. Passatelli in Bronson vede quest'anno la sua 12ª edizione. Qual è la storia di questo festival? Beh, la storia del festival è che ad un certo punto abbiamo pensato ad un festival sotto le vacanze di Natale, perché Ravenna è comunque una città di rientro, quindi non una città di quelle che si svuota come può essere Bologna appunto, ma è una città dove studenti, lavoratori che sono fuori tutto l'anno rientrano per le festività. L'idea nasce da lì. Poi è un periodo in cui non ci sono molti artisti internazionali in giro, in tour durante le feste di Natale, il Capodanno e questo periodo qui dell'anno, quindi è un festival che si concentra sugli artisti italiani. Abbiamo avuto questa idea di, diciamo così, unirlo a un'idea di cibo della tradizione e da Passatelli in Brodo a Passatelli in Bronson il passaggio è stato breve. Anche quest'anno si rinnova la collaborazione con Futura Rumore e la Zona d'Ombra. Quali sono i progetti e i programmi che siete riusciti a costruire insieme? Sì, con Rumore è nata questa collaborazione già dallo scorso anno, proprio perché Passatelli sempre di più ha preso coscienza dell'idea che un programma, diciamo così, concentrato sulle migliori proposte italiane, possibilmente giovani o quantomeno nuove, poteva essere una chiave di lettura particolarmente interessante. Chiedere, diciamo così, la collaborazione di Rumore, che da anni ha questa rubrica Futura che proprio si occupa di questo, è sembrato piuttosto naturale. Poi, oltre al programma ufficiale, appunto, diciamo così, compilato assieme principalmente a Nicolas di Rumore, ci sarà anche una giornata dedicata al nostro progetto di scouting, tutoraggio e produzione, che è la Zona d'Ombra, a cui quest'anno hanno partecipato tantissimi gruppi, hanno fatto application e da queste application ne stiamo per selezionare 7. Qual è stato il criterio di selezione degli artisti che parteciperanno al festival? Dunque, per quanto riguarda il programma ufficiale, veramente il criterio è quello delle nuove proposte italiane, chiamiamole indie nella loro accezione più ampia, che abbiamo ritenuto più interessante e che magari sono anche passate da Futura sul sito o sul cartaceo di Rumore. Da qui il programma appunto di Post Nebbia e Maria Chiara Girò, che saranno gli headliner delle due giornate, poi Eugenia Post Meridian, appena usciti su Bronson Recording, Alpaca, Mondays, Sleepy, Rooms by the Sea e Morgana. Questo è il programma ufficiale, mentre deve essere ancora annunciato il programma La Zona d'Ombra, che quest'anno si svolgerà la domenica pomeriggio. Chris, io ti ringrazio e invito tutti al Bronson Club di Ravenna per il Festival Passatelli in Bronson. Vi aspettiamo per la musica e per i passatelli.